Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Questa redazione cerca gli animali altri, la loro condizione, il modo in cui vengono considerati, pensati, trattati, immaginati, negletti o protetti. E li cerchiamo in ogni tipo di dibattito, in ogni tipo di notizia su attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità. In questa puntata, che è la numero 683, parleremo dell'ipocrisia nei confronti degli animali, di nuovi episodi di caccia selvaggia, tra tanti naufragi infausti parliamo di una tartaruga che invece è stata salvata da un pescatore, parleremo della comunità terrestre e non mancherà una ricetta vegana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale è a cura di Gianluca Masa. La tutela degli animali è un tema che unisce le forze politiche, almeno nelle aule di Camera e Senato. Anche questa legislatura, infatti, c'è un gruppo parlamentare molto trasversale che si occupa di animali e dei loro diritti. Di questo gruppo fanno parte esponenti di tutte le forze politiche rappresentate sia a Montecitorio che a Palazzo Madama. Tra queste persone sensibili c'è anche la senatrice Giulia Unterberger, che è stata nominata nell'ufficio di presidenza dell'intergruppo. Negli ultimi giorni la senatrice Unterberger ha fatto una dichiarazione molto esplicita. Ha spiegato come, nonostante la tutela degli animali sia entrata nella Costituzione italiana, nonostante sia passato il divieto di allevare animali per ricavarne pellicce e il divieto di triturazione dei pulcini maschi, che sarà operativo a partire dal 2026, la legislazione esistente e le sanzioni per i maltrattamenti sono ancora nettamente inadeguate. Le norme penali non si applicano in parte o del tutto per allevamenti, trasporti, macellazione, circhi, zoo, caccia e manifestazioni storico-culturali. In sostanza, le eccezioni sono tantissime, sono troppe, sono la maggioranza. Praticamente parliamo dell'80% degli animali, ha detto Unterberger, per i quali il trattamento crudele è del tutto legale. Finalmente un politico, in questo caso una donna, sta ammettendo quello che noi affermiamo da sempre, cioè che i diritti animali sono, per il momento, pura ipocrisia, almeno finché potranno valere solo per alcune categorie e non per altre. Per darvi la misura di quanto questo sia vero, basti pensare alla categoria di polli e galline. Animali che vengono sistematicamente allevati in gabbie e che subiscono mutilazioni per prevenire le conseguenze del loro stress. Ebbene, per un problema di concorrenza, gli allevatori europei stanno dicendo che non possono praticare il benessere animale. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, è stata consultata in vista della prossima revisione della legislazione europea sul benessere degli animali. È stato chiesto a questa autorità che valutasse i pericoli che corrono i polli da carne e le galline ovaiole negli allevamenti europei. E il risultato era prevedibile. Tutti gli studi affermano che l'allevamento in gabbia, individuale o collettivo, è responsabile di tantissime patologie, per esempio lo stress da isolamento, lo stress di gruppo, la limitazione del movimento, problemi di riposo. In conclusione, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha raccomandato alla Commissione Europea di porre fine all'allevamento del pollame in gabbia e alle mutilazioni degli animali. Sono pratiche pericolose per il loro benessere e questo ha suscitato grande preoccupazione negli allevatori. Gli allevatori associati, per esempio Copa Cogeca, ma anche l'AVEC, una federazione europea di produttori di pollame, sostengono che queste raccomandazioni, se saranno realmente applicate, porteranno alla scomparsa della maggior parte del settore avicolo europeo, comprese la carne e le uova. Come faranno i produttori dell'Unione Europea a resistere alla feroce concorrenza internazionale che non applica standard così elevati nelle aziende agricole? Sono infatti già in crescita le importazioni da Brasile, Thailandia e Ucraina, paesi dove nel trattare gli animali allevati non si va tanto per il sottile e i prezzi sono bassissimi. Ecco un'altra prova del fatto che siamo immersi in un sistema talmente deregolamentato, talmente liberista, dove l'unico elemento che conta è il prezzo e che tutto questo va a discapito di etica e diritti che diventano inapplicabili. Ogni regolamentazione, ogni passo avanti per umani e non umani può essere vanificato in qualunque momento dal libero mercato. Capite che in questo contesto la politica non avrà più nessuno spazio di manovra. Però un giorno dovremo svegliarci da questo incubo e noi continuiamo a sperare che la luce compaia in fondo al tunnel. E un barlume di luce in fondo al tunnel ce la sta dando questa notizia che ci arriva da Riccione. È la storia di una tartaruga caretta caretta. In un momento di tragici naufragi, questa tartaruga è stata pensata e salvata da un pescatore. La sua fortuna infatti è stata quella di restare impigliata nelle reti di un pescatore di Cesenatico. Aveva sul carapace ferite profonde fino al sanguinamento, probabilmente inferte un paio di giorni prima, perché evidentemente c'è chi si diverte a incidere con una lama il carapace di una tartaruga marina, marchiandolo con delle lettere che forse sono iniziali di un nome, fino a farla sanguinare. E non è il primo caso di violenza sadica contro questi animali indifesi. Per fortuna è finita in mano a un pescatore molto sensibile che collabora al progetto Life Med Turtles per la conservazione delle tartarughe marine. Quando ha trovato la tartaruga impigliata nella sua rete, ha subito avvertito affinché venisse recuperata e portata nella clinica specializzata di Riccione, dove adesso si trova in degenza. L'hanno chiamata Elettra, è una femmina di circa 20 anni. Ed è probabile che sia finita nella rete proprio perché era debilitata dalle sue ferite. Sono ferite guaribili che però, se non fossero state curate, avrebbero potuto portare anche a infezioni fino alla setticemia, cosa che per un animale selvatico può significare la differenza tra la vita e la morte. Il concetto di marchiare un animale in quel modo, come a dire «sei mio, ti faccio quello che mi pare», è veramente devastante. Questi animali marini, oltretutto, non manifestano la sofferenza con versi di dolore. A maggior ragione dimostra mancanza di conoscenza, mancanza di preoccupazione, mancanza di rispetto verso qualcosa a te completamente estraneo. Il gesto è stato denunciato perché le tartarughe caretta caretta sono specie protette dalla Convenzione di Washington. Pensate che la Fondazione Cetacea ha sede a Riccione e nel suo ospedale in questo momento sono ricoverate 15 tartarughe. Lo scorso anno sono state soccorse e ospedalizzate in tutto 40 esemplari. Dopo le cure vengono rimesse sempre in libertà nell'Adriatico. Non bastavano le plastiche marine che avvelenano, soffocano anche le reti dei pescatori o degli allevamenti nelle quali restano impigliate fino ad annegare. Le tartarughe devono vedersela anche con chi ne fa bersaglio di gesti cruenti e insensati. Questo è solo l'ultimo caso. C'è tutta una lunga lista che vi risparmio perché è veramente inquietante. A noi basta sapere che Elettra ce l'ha fatta, che è viva, che sta bene e che presto riconquisterà il suo mare. Tantissimi auguri a questo magnifico animale. Continuiamo a parlare di caccia, è un argomento che come sapete ci sta molto a cuore. Parliamo di caccia, anzi di guerra dichiarata ai selvatici. Cresce in modo inquietante la deregolamentazione che è in corso nella caccia cosiddetta di selezione numerica. L'emendamento caccia selvaggia che consente la caccia ai selvatici anche nelle aree protette e nelle città sta dando i suoi frutti avvelenati anche prima di trovare applicazione. A Mentana, un comune fuori Roma, nel mese di gennaio scorso, alcuni cittadini tentarono di catturare un cinghiale armati di corde, bottiglie, mazze da baseball. E ancora più incredibile è il fatto che a questa assurda battuta di caccia fosse presente anche un carabiniere, che da un video circolato sembra aver scagliato una bottiglia di vetro addosso all'animale impaurito. Gli effetti nefasti dell'emendamento caccia selvaggia continuano. L'ultima notizia riguarda la capitale, Roma, dove il 23 sera in via Vincenzo Marmorale, in zona Bufalotta, alcuni cittadini si sono trovati faccia a faccia con tre cacciatori che, armati di tutto punto, erano intenti a stanare alcuni cinghiali. Incuranti del rischio a cui esponevano le persone, questi hanno sparato più volte a pochi metri dalle case e dalle strade. Un atto di intollerabile violenza verso animali e cittadini, esercitato al di fuori dell'area dichiarata infetta per la peste suina africana. Considerato che la stagione di caccia al cinghiale è chiusa ormai da un mese, l'associazione animalista LAV, Lega Antivivisezione, ritiene molto probabile che questo episodio rappresenti un atto di caccia illegale e chiede ai carabinieri di indagare ed eventualmente sanzionare i responsabili. La caccia uccide milioni di animali ogni anno, ma ora anche i cittadini sono a rischio. Sono numerosi i casi di cacciatori che si sparano tra loro scambiandosi per cinghiali ed è evidente che aprire le città alle doppiette non potrà che incrementare il numero di vittime umane. Negli ultimi due fine settimana di marzo, la LAV, Lega Antivivisezione, organizzerà tavoli in tutte le maggiori città affinché la cittadinanza possa sottoscrivere una petizione che sarà consegnata ai ministri dell'ambiente e dell'agricoltura, ai presidenti delle regioni, ai prefetti e ai sindaci per chiedere l'annullamento della caccia selvaggia e la messa in opera di tutte le azioni non letali, non cruente, di prevenzione dei danni a tutela degli animali selvatici e a garanzia della sicurezza dei cittadini. Per saperne di più potete consultare il sito dell'associazione LAV, che è www.lav.it. Back home, the clouds they're paler, so I can bring you all that I have but own. Come feel it on my side, the rhythm of them, like a fiery member life to follow. Quella contro il nemico selvatico non è certo una guerra recente, ma in questi ultimi mesi la logica dell'eliminazione fisica degli invasori, con certi rimandi all'immaginario macista e militarista che caratterizza le retoriche di molte componenti del governo, potrebbe trovare un consenso ancora più disinibito. E poi, in fondo, diciamocela tutta, c'è davvero qualcosa di male nel sostenere che gli umani hanno conquistato il diritto assoluto di gestione dello spazio e possono decidere quale sia il numero accettabile di esemplari di una data specie sul territorio? Fossero in grado di farlo gli ungulati, oppure le mucche, i cavalli o altri animali da reddito, pensate che esiterebbero? In fin dei conti si tratta di decidere da che parte stare, da quella del coabitare un pianeta e della tenace resistenza animale, oppure da quella del suprematismo, della proprietà sugli spazi del mondo, dei confini e del mattatoio. Ecco, quelle che abbiamo letto sono parole tratte dal magazine online comune-info.net. Net, quando a inizio febbraio era stata presentata la manifestazione fiorentina che si è poi tenuta il giorno 12, una manifestazione a favore degli animali selvatici urbani, contro l'inutile, sanguinario e sistematico sterminio in atto verso ogni individuo selvatico che osi avvicinarsi e attraversare gli spazi abitati dagli umani, quindi città, campagne produttive, naturalmente strade, eccetera. Praticamente quasi tutto lo spazio. La nostra redazione ha partecipato a quella manifestazione, dove ci sono stati tanti interventi molto belli e significativi. Tra questi anche il nostro, che trovate pubblicato nel blog restiamoanimali.it. Tra i molti interventi significativi, uno ci ha colpito in modo particolare. Si tratta di Silvia, una ragazza che ha raccontato la sua esperienza di agricoltrice antispecista. Un'esperienza che unisce la teoria alla pratica, lo spessore etico al lavoro, l'utopia alla concretezza. Una, insomma, di quelle rare esperienze che ti fanno pensare al mondo come potrebbe essere, come potrebbe funzionare davvero. Loro si chiamano Terrestra e si definiscono comunità che sostiene un'agricoltura che non si pone in conflitto con tutte le altre specie animali e selvatiche. Qualcosa di raro, di prezioso, perché il mondo contadino, come purtroppo lo conosciamo, ha un rapporto a dir poco conflittuale con gli animali, che divide in selvatici e quindi dannosi, per cui bisogna difendersi con la carabina, oppure da reddito e che quindi vanno sfruttati. Molti anni fa noi organizzammo un convegno con tanti produttori agricoli, anche sensibili. Purtroppo però non riuscimmo in nessun modo a convergere verso un'idea di agricoltura senza sfruttamento. Per fortuna anche quel mare presenta alcune increspature. Sentiamo la storia di Terrestra attraverso la voce di Silvia. Ciao a tutti e a tutti, mi chiamo Silvia e il progetto agricolo che sto portando avanti assieme ad un gruppo di amiche, di amici, nasce una decina di anni fa. Veniamo da mondi che sono lontani da quello contadino, sono mondi dell'arte, nel mio caso dell'economia, e noi tutte sentivamo l'esigenza di trasformare in modo radicale la nostra vita, consapevoli di vivere in un momento storico che richiede delle risposte concrete di cambiamento. Abbiamo quindi deciso di gestire direttamente il potere della mia famiglia, che fino a quel momento era stato affittato, e lo abbiamo trasformato in un'azienda agricola biologica. Oggi coltiviamo ortaggi, vigneto e frutteto. Nella coltivazione utilizziamo varie tecniche agroecologiche che vanno dall'utilizzo di mezzi tecnici che rispettano la vita microbica del suolo a derivati vegetali come il compost, i fermentati, a tecniche come il sovescio. Abbiamo piantato un bosco, abbiamo piantato siepi e oggi più del 10% della superficie, che è già piccola e modesta, è restituita alla complessità, in questo modo, del nostro ecosistema. Entrare nel mondo rurale non è stato semplice per noi, ci siamo subito scontrati con quella che è una visione fortemente patriarcale, una visione legata a tradizioni che si basano esclusivamente sul dominio e sullo sfruttamento del vivente che ci circonda. È un mondo in cui le donne vengono relegate alle zone marginali, in collina, in montagna, su tutte quelle zone che sono poco interessanti perché sono poco redditizie e quindi sono state abbandonate dall'agricoltura convenzionale. Non solo, anche a livello politico la voce delle donne in questo settore è inesistente. Nonostante le imprenditrici rappresentano infatti un terzo del mondo imprenditoriale, non sono presenti in nessun consiglio di amministrazione, non sfondano insomma quello che è il soffitto di cristallo del mondo politico e della rappresentanza sindacale. E infine è un settore, questo appunto, dominato dalla GDO, cioè dalla grande distribuzione organizzata, che impone i prezzi ai suoi fornitori. E questo spinge chi coltiva ad un'alternativa a lavorare in perdita oppure a sfruttare a ricaduta l'ambiente circostante, il suolo, l'aria, l'acqua, gli altri esseri umani e gli animali altri. L'idea di fondare una CSA, cioè una comunità che sostiene l'agricoltura questo è l'acronimo, è nata per rispondere a questi problemi e a offrire un'alternativa sociale e politica. CSA modello nasce in Giappone negli anni 70 e oggi è diffuso ampiamente in tutto il mondo. In estrema sintesi lo possiamo definire come un patto tra chi coltiva e le consumatrici e i consumatori, che in questo modo non hanno più un ruolo passivo, appunto, di consumo, ma diventano parte attiva nelle varie fasi del processo produttivo, dalla pianificazione dell'orto fino alla coltivazione e alla distribuzione settimanale delle cassette di verdura. Le socie e i soci della nostra CSA, che si chiama Terrestra, garantiscono la copertura dei costi dell'attività agricola, permettono l'azzeramento dello spreco perché la produzione dell'orto è tarata sul loro numero. Inoltre possono partecipare direttamente alle varie attività quotidiane. Noi crediamo sia possibile fare agricoltura abbandonando lo specismo della cultura dominante. Viviamo e lavoriamo quotidianamente a contatto col selvatico e questo ci spinge a lavorare nuove forme di coesistenza e condivisione. Per questo motivo riteniamo che il nostro sia un attivismo che prende forma ogni volta che prepariamo il suolo, che seminiamo, che coltiviamo, che raccogliamo, e in estrema sintesi possiamo dire che per noi fare agricoltura è fare politica antispecista. Tra i progetti di CSA Terrestra, CSA è acronimo di Comunità che sostiene l'agricoltura, ce n'è uno particolarmente affascinante. Lo hanno chiamato 60 secondi. Sono pillole video, brevi e magnifiche, nelle quali solo apparentemente sembra che succeda poco o nulla. È una forma di osservazione non frenetica o invasiva della natura, dei suoi cicli e dei suoi riti. Le formiche che si affannano a costruire formicai, le api a bottinare i fiori, le piante a crescere per portare avanti il proprio patrimonio genetico. Le riprese fisse, i titoli scarni, i montaggi essenziali esaltano l'effetto ipnotico di una natura perfettamente interconnessa al di fuori di noi. Vi consigliamo vivamente di cercare sul sito www.terrestra.it o nel relativo canale YouTube CSA Terrestra e di guardarne almeno uno. Noi vi suggeriamo quello intitolato Le Volpi. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana cruelty free per una convivialità senza crudeltà. La ricetta di oggi sarà dedicata agli orsi. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Nei miei ricordi di bambino gli orsi sono Yogi e Bubu, Winnie the Pooh, Baloo del libro della giungla, ma i miei preferiti e un po' meno famosi erano i tre orsi hippie di Hanna-Barbera, in originale Help, it's the Hair Bunch, ma conosciuto da noi come Napo Orso Capo, e per uno strano scherzo del doppiaggio hanno regalato al protagonista un accento strettamente napoletano, e per questo vi racconto una ricetta napoletana coloratissima e divertente. Gli ingredienti per 4 persone per gli struffoli sono 20 g di farina di ceci, 20 g di farina tipo 0, 50 g di zucchero di canna, 50 g di olio extravergine di oliva, 30 ml di rum, la scorza grattugiata di mezzo limone, la scorza grattugiata di mezza arancia, un pizzico di sale, 100 g di malto d'orzo o di riso, olio per friggere e confetti di zucchero colorati e frutta candita. Amalgamate la farina di ceci con il rum fino ad ottenere una pastella piuttosto densa e liscia. Unite lo zucchero di canna, l'olio, la farina, la scorza grattugiata degli agrumi e un pizzico di sale. Impastate bene e, se fosse necessario, aggiungete poca acqua. Quando avrete ottenuto una pasta omogenea simile ad una pasta frolla, lasciatela riposare a temperatura ambiente per 30 minuti. Successivamente recuperate l'impasto e formate dei cilindri del diametro di 1 cm e con un coltellino staccate tanto i piccoli pezzetti larghi 1 cm e con le mani formate tante palline. Friggete gli struffoli in olio bollente, avendo cura di girare spesso per fare ben dorare senza bruciare. Lasciate scolare e asciugare dall'olio su carta per frittura. Scaldate leggermente il malto e unite gli struffoli. Fate cuocere fino a quando non avranno assorbito lo sciroppo, caramellandosi. Disponete il tutto su un vassoio, decorando con confetti di zucchero colorati e frutta candita. Fate raffreddare e servite. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Nel portale greenme.it, il 24 febbraio scorso, è stato pubblicato un articolo corredato da un video che spezza il cuore, per attivare una raccolta fondi dedicata a un leone molto speciale. Lo hanno soprannominato Ruben, ha 15 anni ed è il leone più triste del mondo. Da 5 anni, infatti, è completamente solo in uno zoo che ha chiuso i battenti, lasciandolo isolato nella sua piccola gabbia. Non sente nessun verso animale da 5 anni, vive una solitudine agghiacciante e alienante senza avere il conforto di un suo simile da 5 anni. Ruben è nato in cattività, è stato detenuto all'interno di una piccola gabbia in uno zoo in Armenia fino a quando la struttura non ha chiuso al pubblico. Mentre gli altri animali sono stati trasferiti in altri parchi zoologici, lui è rimasto lì da solo. La sua piccola gabbia è l'unico ambiente che ha sempre conosciuto, però da 5 anni è sprofondato anche nel silenzio più profondo. Non ha sentito altri suoni se non il suo ruggito e i passi di qualcuno che veniva per nutrirlo. Non conosce nient'altro, solo le sbarre e il cemento. L'associazione Animal Defenders International ha preso a cuore il suo caso e sta raccogliendo fondi per trasferirlo in un grande santuario del Sudafrica, dove potrà vivere libero sotto osservazione degli esperti. Ha denti rotti e incrinati, problemi neurologici, le sue ossa scricchiolano. Non c'è da sorprendersi, viste le condizioni in cui è stato detenuto finora. Ma tutto questo ha solo reso ancora più urgente il suo salvataggio. Ruben trascorrerà un periodo di quarantena in una struttura santuario per orsi in Armenia e poi partirà per il Sudafrica. Per donare potete cercare su internet donate.ad-international.org/ruben/. Noi auguriamo a Ruben di farcela ritrovare la sua terra, quella dalla quale i suoi antenati sono stati rapiti tanti anni fa da una società umana prepotente e violenta. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 684 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde,